terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Alle 3 del mattino ebbe inizio il cotillon. Emma non sapeva ballare il valzer e lo ballavano tutti, anche la signorina d'Andervilliers e la marchesa. Ormai erano restati solo gli ospiti del castello, al massimo una dozzina di persone. A un certo punto, uno dei ballerini, che veniva chiamato familiarmente Visconte e che portava il panciotto molto aperto come modellato sul suo petto, invitò per la seconda volta la signora Bovary, assicurandole che l'avrebbe guidata lui e che lei se la sarebbe cavata benissimo. Cominciarono con lentezza, poi andarono sempre più in fretta. Volteggiavano. Tutto girava intorno a loro, lampade, mobili, soffitto, pavimento, tutto, come un disco su un perno. Passando vicino alle porte, la veste di Emma si gonfiava all'orlo sino a sfiorare i pantaloni di lui. Le loro gambe si incrociavano. Lui abbassava gli occhi su di lei. Lei levava gli occhi verso di lui. La stremava un gran languore. Si fermò. Ma poi ripartirono. E con un movimento più rapido, il visconte la trascinò in fondo alla galleria. Lì, senza fiato, lei si sentì cadere e appoggiò per un attimo la testa sul petto dell'uomo. E poi ancora, girando sempre, ma più dolcemente adesso, lui la ricondusse sino alla sua sedia. Lei si lasciò andare contro la parete, una mano davanti agli occhi. Poi si parlò ancora per qualche minuto. Alla fine si salutarono, o meglio, si dettero il buongiorno. Gli ospiti del castello andarono a dormire. Charles saliva aggrappandosi alla ringhiera. I ginocchi gli si piegavano sotto il corpo. Aveva passato 5 ore di fila in piedi davanti ai tavoli a guardare giocare al whist senza capirci nulla. Tirò quindi un gran sospiro di sollievo, togliendosi finalmente le scarpe. Emma invece si buttò addosso uno scialle, andò ad aprire la finestra, si appoggiò con i gomiti al davanzale. La notte era buia, cadeva qualche goccia di pioggia. Lei respirò il vento umido che le rinfrescava le palpebre. La musica della festa le ronzava ancora negli orecchi. Lei si forzava di restare sveglia. Voleva prolungare l'illusione di quell'esistenza di fasto che sapeva di dover troppo presto abbandonare. Spuntava l'alba. Guardò a lungo le finestre del castello, cercando di indovinare le stanze di tutti quelli che aveva conosciuto quella sera. Avrebbe voluto conoscere anche le loro vite, penetrarvi, confondersi in esse. Ma stava tremando di freddo. Si spogliò, si rannicchiò tra le lenzuola contro Charles, che già dormiva. Ci fu molta gente a colazione. Il pasto non durò più di 10 minuti. Charles, intanto, andò a pregare un domestico che attaccassero il suo boc. Questo venne condotto davanti all'ingresso e, quando pacchi e pacchetti furono caricati, i coniugi Bovary presentarono i loro omaggi al marchese e alla marchesa e se ne ripartirono per Toast. Un quarto di lega dopo si dovettero fermare per aggiustare la legatura del carico che si era disfatta. Mentre dava un'ultima occhiata alle bardature, Charles però scorse per terra, proprio tra le zampe del suo cavallo, qualcosa di strano. Raccolse un portasigari tutto orlato di seta verde, con un bel blasone al centro, come sulla portiera di una carrozza. «Ci sono anche 2 sigari dentro. Andranno bene per stasera dopo cena». «Ma come, fumi?» lei chiese. «Qualche volta se mi si presenta l'occasione». Mise in tasca il bottino e frustò la sua cavalcatura. Quando arrivarono a casa, il pasto non era ancora pronto. La signora si irritò. Nastasie rispose insolentemente. «Via! Questo si chiama prendere in giro la gente! Vi licenzio!» disse Emma. Da mangiare c'era soltanto una zuppa di cipolle e un poco di vitello alla cetosella. Seduto davanti a Emma, Charles si stropicciava le mani. Disse con aria felice. «Ma che piacere ritrovarsi a casa propria!» Si mise a fumare. Sporgeva le labbra, sputava di continuo, si tirava indietro a ogni boccata. «Finirai per sentirti male», lei disse sprezzante. Allora lui depositò da qualche parte il sigaro, corse alla pompa a mandar giù un bicchier d'acqua fresca. Emma afferrò il portasigari, lo buttò con violenza in fondo all'armadio. Il giorno dopo il tempo parve non passare mai. Lei passeggiò per il suo giardinetto, in su e in giù, sempre per gli stessi viali, fermandosi davanti alle aiole, davanti alle siepi, davanti al prete di gesso, osservando con stupefazione tutte quelle cose di una volta che pure conosceva talmente bene. Come le pareva già lontano il ballo. Chi aveva mai posto una simile distanza tra il mattino dell'altro ieri e la sera dell'oggi? Il viaggio alla Vaubyessard aveva aperto una voragine nella sua vita, come uno di quei crepacci che il temporale d'una notte scava a volte nelle montagne. Comunque lei si rassegnò, chiuse religiosamente nel cassettone la sua bella veste e gli scarpini di seta che avevano le suole ingiallite dalla cera sdrucciolevole di quel pavimento. Somigliavano al suo cuore. Anche il suo cuore, sfiorando la ricchezza, s'era tinto d'una vernice che nulla avrebbe più potuto cancellare. Così, ricordare la festa fu la sua nuova occupazione. Ogni volta che tornava mercoledì, lei si diceva svegliandosi: «Ah, 8 giorni fa, 15 giorni fa, 3 settimane fa ero laggiù». A poco le facce le si confusero in mente. Dimenticò l'aria delle danze. Non rivide più così esattamente livree e sale. Più d'un particolare andò perduto, ma le restò il rimpianto. Spesso, quando Charles era via, lei andava a prendere nell'armadio, tra le pieghe della biancheria in cui l'aveva riposto, il portasigari di seta verde. Lo contemplava, lo apriva, arrivava persino ad annusarne l'odore della fodera, un miscuglio di verbena e tabacco. A chi era appartenuto? Al visconte. Forse era un regalo della sua amante. Costei lo aveva ricamato su qualche telaio di palissandro, talmente piccolo da poter sfuggire agli occhi indiscreti. Vi aveva chinato sopra per ore e ore la molle chioma pensierosa. Un soffio d'amore era passato tra le maglie del tessuto. Ogni gugliata vi aveva fermato una speranza o un ricordo, e tutti quei fili di seta intrecciati raffiguravano la continuità di una tenace passione silenziosa. E poi, una mattina, il visconte l'aveva avuto con sé. Di cosa parlavano mai quando quell'oggetto giaceva sui larghi ripiani dei caminetti tra vasi di fiori e pendole alla Pompadour? Emma era tosta adesso, e lui era a Parigi, invece, così lontano. Ma com'era questa famosa Parigi? Che nome immenso! Lei se lo ripeteva piano piano. Le faceva piacere sentirlo. Lo sentiva suonare ai suoi orecchi come la campana d'una cattedrale e accecava i suoi occhi persino dalle etichette dei suoi barattoli di crema. Acquistò una pianta di Parigi e con la punta di un dito compiva sulla carta le sue escursioni nella capitale. Risaliva i boulevard, fermandosi a ogni angolo, tra le linee delle vie, o davanti ai quadratini bianchi rappresentanti le case. Alla fine aveva gli occhi stanchi, serrava le palpebre e nel buio vedeva le fiammelle dei fanali a gas oscillare al vento e le file delle fragorose carrozze allinearsi davanti ai peristili dei teatri. Si abbonò al Cestello, periodico femminile, e al Silfo dei Salotti. Divorava senza tralasciar nulla tutti i resoconti delle prime, delle corse, dei ricevimenti. Si interessava al debutto d'una cantante, all'apertura d'un negozio. Era al corrente di ogni moda nuova, dell'indirizzo dei migliori sarti, dei giorni di ritrovo al Bois o all'Opéra. Studiò, nei romanzi di Eugène Sue, le descrizioni degli arredamenti, lesse Balzac e George Sand, cercando di appagare i propri appetiti con quelle offe immaginarie. Si portava addirittura i libri a tavola e ne sfogliava le pagine, mentre Charles mangiava e le rivolgeva la parola. E in ogni sua lettura, quotidianamente, le ritornava il ricordo del visconte. Non faceva altro che stabilire accostamenti tra lui e i personaggi dei romanzi. Ma il cerchio di cui quello era il centro s'allargava poco a poco, e quella particolare aureola, staccandosi da quel particolare capo, si spingeva lontano per illuminare altri sogni. più vasta dell'oceano, Parigi risplendeva dunque agli occhi di Emma in un'atmosfera vermiglia. La molteplice vita che si agitava in quel tumulto era tuttavia divisa in varie parti, classificata in scene distinte. Emma ne arrivava a percepire due o tre che le nascondevano ogni altra e rappresentavano da sole l'intera umanità. Il mondo degli ambasciatori incedeva su lucidi pavimenti, in saloni rivestiti di specchi, intorno a tavoli ovali ricoperti da tappeti di velluto a frange d'oro. C'era uno scialo d'abiti a strascico, grandi misteri, angosce dissimulate sotto i sorrisi. E poi veniva il mondo delle duchesse. Erano tutte talmente pallide, figurarsi, si alzavano alle 4 del pomeriggio, poveri angeli dalle gonne orlate di merletto appunto inglese. E i loro uomini, valori misconosciuti dietro le futili apparenze, si facevano morire sotto i cavalli in gran galoppate oziose, consumavano le estati a Baden e verso la quarantina convolavano a nozze con le migliori ereditiere. Nei salottini privati dei ristoranti, in cui si comincia a mangiare dopo la mezzanotte, rideva, alla luce delle candele, il variopinto mondo dei letterati e delle attrici. Tutta gente, quella prodiga come re, traboccante di ambiziosi ideali e di deliranti fantasie. Un'esistenza veramente al di sopra di tutte le altre, tra terra e cielo, nel vortice delle tempeste, qualcosa di sublime. I sospiri al chiar di luna, i lunghi abbracci, le lacrime fiottanti sulle mani abbandonate, tutte le febbri della carne, tutti i languori dell'affetto non potevano certo andar separati dai balconi dei grandi castelli ove è sempre festa, da qualche salottino con tende di seta e soffici tappeti, giardiniere trionfanti di fiori, letti troneggianti su piedistalli, né dallo scintillio delle pietre preziose e dai galloni dorati delle livree. Il mozzo di stalla, che ogni mattina veniva dalla posta a governar la cavalla, attraversava il corridoio con i suoi grossi zoccoli. Il suo camiciotto era tutto un buco, i suoi piedi erano nudi e sporchi. Ecco il groom in calzoni corti di cui bisognava accontentarsi. E quando aveva finito, se ne andava e non si faceva più vedere per tutta la giornata. Ci pensava Charles stesso al ritorno a portare la sua bestia nella stalla, a toglierle la sella, a metterle la cavezza, mentre la serva portava una bracciata di paglia e l'aggiustava alla bella e meglio nella mangiatoia. In sostituzione di Nastasie, Emma aveva preso al proprio servizio una ragazzina di 14 anni, orfanella, con un faccino dolce. Le proibì le cuffie di cotone, le insegnò i discorsi in terza persona con i padroni, l'interdipendenza tra piattini e bicchiere d'acqua, la necessità di bussare prima di entrare in una stanza, l'importanza di stirare e inamidare, il diritto e il dovere di aiutare lei a vestirsi. Insomma, ne volle fare la propria cameriera personale. La nuova venuta ubbidiva senza fiatare per la paura di venir licenziata e, dato che la signora aveva l'abitudine di lasciar la chiave nella credenza, Félicité prelevava ogni sera una piccola provvista di zucchero che si mangiava tutta sola in letto dopo aver regolarmente recitato le preghiere. Il pomeriggio, a volte, la serva scappava a chiacchierare con i postiglioni nella casa di faccia. La signora restava su, nella sua camera. S'era comprata una quantità di carta assorbente, carta da lettere, buste e penne, per quanto non avesse da scrivere assolutamente a nessuno. Spolverava e rispolverava l'étagère, si contemplava allo specchio, prendeva un libro, poi, sognando tra le righe, se lo lasciava cadere sui ginocchi. Aveva una gran voglia di far dei viaggi, oppure di tornare a vivere nel suo convento. Desiderava morire e insieme abitare a Parigi. Thank you. Ci fosse la neve o la pioggia, Charles se ne andava a cavallo per strade fuori mano. Mangiava una frittata sulle tavole delle cascine, infilava un braccio in letti umidi, riceveva in piena faccia il tiepido spruzzo dei salassi, ascoltava rantoli, esaminava feci, frugava tra la biancheria sudicia. Ma tutte le sere, rincasando, trovava un bel fuoco fiammeggiante, una cena bene imbandita, mobili confortevoli e una moglie elegante, affascinante, con un profumo così suggestivo che non si capiva da dove venisse. Forse era la sua stessa pelle a intriderne dolcemente la camicia. Lei lo incantava con un'infinità di delicatezze. Ora una maniera totalmente nuova di foggiare piattini di carta per i doppieri, ora un volante cambiato alla sua veste, ora il nome straordinario di un piatto semplicissimo che la serva aveva miseramente fallito, ma che Charles trangugiava di gusto sino all'ultimo boccone. Stava bene lui, aveva un ottimo aspetto, e la sua reputazione era ormai più che salda. I contadini gli si affezionavano perché non si dava arie. Lui carezzava i bambini, non metteva mai piede in un'osteria, ispirava fiducia per la sua assoluta moralità. Eccelleva soprattutto nei catarri e nelle malattie di petto. Siccome aveva una gran paura di ammazzare i suoi clienti, Charles si limitava in realtà a ordinare esclusivamente pozioni calmanti, qualche emetico, un pediluvio, al massimo un'applicazione di sanguisughe. Per tenersi al corrente, come diceva, si abbonò all'Alveare Medico, una nuova pubblicazione di cui gli avevano inviato i prospetti. Provava a leggerne un poco dopo i pasti, ma il calore della stanza s'univa al torpore della digestione. In capo a 5 minuti s'addormentava e restava là così, il mento tra le mani, i capelli pendenti come una criniera sino alla base della lampada. Emma allora lo guardava e si stringeva nelle spalle. Le fosse almeno toccato come marito uno di quegli uomini dagli ardori silenziosi che trascorrono le notti sui libri e verso i 60 anni, l'età dei reumatismi, sono in grado d'ostentare sulle marsine nere mal tagliate le fatidiche crocette delle decorazioni. Avrebbe talmente voluto lei che quel nome di Bovary, ormai suo, diventasse illustre. Avrebbe talmente voluto vederlo in mostra nelle librerie, ripetuto nei giornali, conosciuto dalla Francia intera. Ma Charles non aveva ambizioni. Un medico di Yvetot, con il quale recentemente aveva avuto un consulto, si era permesso di umiliarlo un poco al capezzale stesso del malato davanti ai parenti riuniti. Quando la sera Charles raccontò l'episodio, Emma insorse contro quel collega. Charles si commosse a una simile reazione. Con le lacrime agli occhi baciò la moglie sulla fronte. Ma lei era esasperata per la vergogna. Avrebbe voluto battere il marito. Per calmarsi andò ad aprire la finestra nel corridoio. Aspirava l'aria fredda. «Ma che ometto, che ometto!» si diceva piano e si mordeva le labbra. La sua irritazione contro di lui si acuiva sempre più. Con l'età lui prendeva abitudini grossolane. Dopo mangiato tagliuzzava i tappi delle bottiglie vuote. Si passava e ripassava la lingua sui denti. Nel sorbire la minestra gorgogliava ogni cucchiaiata e poiché cominciava a ingrassare, i suoi occhi, che già non erano mai stati grandi, parevano respinti in su, verso le tempie, dal dilatarsi della faccia. In fondo al cuore di Emma, tuttavia, era una grande attesa, l'attesa di un vero avvenimento. Come i marinai che si sentono perduti, continuava a girare sulla solitudine della sua esistenza sguardi disperati, cercando di intravedere lontano, tra le brume dell'orizzonte, il biancore di una vela. Non sapeva immaginare quale avvenimento le avrebbe elargito il caso. Ritornò la primavera. Lei si sentì soffocare quando i peri cominciarono a fiorire ai primi tepori. All'inizio di luglio prese a contare sulle dita quante settimane mancassero per arrivare a ottobre, pensando che il marchese d'Andervilliers avrebbe forse dato un altro ballo. Ma l'intero settembre trascorse senza lettere né visite. Dopo la ferita di questa delusione, il suo cuore restò di nuovo vuoto. Ricominciò la serie delle giornate, una uguale all'altra.